Segretario, lei ritorna a Montecitorio, applausi in aula e poi però la sua presenza già fa discutere, dice cioè, abbiamo pronti i fucili, che cosa intendeva? Ma no, la domanda di un giornalista è: dovete stare attenti a fare le riforme, anzi non fatele possibilmente perché la sinistra scende in piazza. Quando dico 300.000 uomini disposti a battersi, non li abbiamo davvero 300.000, quindi non è che ci fa paura la sinistra che scende in piazza, che ci minaccia scendendo in piazza. Io non credo che la sinistra abbia interesse davvero a fare quella scelta, però se mai volesse farla è meglio che non la faccia, perché c'è forza popolare enorme, quella dietro la Lega, che non ha paura della sinistra che scende in piazza. Senta, con Berlusconi i rapporti sono tranquilli, lei ha detto buono, noi ci buono. Siamo sposati, quindi con tranquillità che ministeri avrete, voterete la fiducia? Sì, sì, e beh, Berlusconi onestamente le ultime possibilità le ha prima, no, le ha dopo che noi abbiamo votato il Presidente di Camera e Senato, perché dopo il coltello c'era lui dalla parte del manico. Fino allora in teoria noi potremmo eleggere uno della Lega al Senato e uno che sta alla Camera e uno al Senato della sinistra, se volessimo. I voti li abbiamo. Quindi per Berlusconi ha dovuto evidentemente valutare tutto anche questo. Qualcuno dice che è un governo che durerà poco perché la Lega ha il coltello dalla parte del manico, alla fine si sfilerà. No, no, non è così. La Lega vuole solo le riforme, vuole il federalismo.